Dialogo 9. Raccontò Abu Darda: un giorno l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, chiese: volete sapere quale sia la migliore delle vostre azioni, la più pura presso Allah, la più nobile agli effetti della vostra posizione in graduatoria, la più efficace di tutto ciò che spendete in oro e argento per la causa di Allah, la più gloriosa della vostra battaglia contro i nemici dell'Islam, nella quale uccidete e siete uccisi? Gli risposero: dicelo, apostolo di Allah. Disse: il ricordo di Allah.